Azione. Radio Azione. Controinformazione. Letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. radioazione.org. ancora non siamo caduti. Allora, radiazione, diretta d'azione, venerdì 30 maggio 2014, a pochi minuti dalla disconnessione, tanto cadrà la connessione tra le 17.10, 17.20, 25, quelli sono gli orari di solito. Per chi sa come fare, è inutile starvelo a spiegare, altrimenti basta riaggiornare la pagina o ricliccare sul lettore e tornate ad ascoltare la diretta d'azione. Ovviamente se aspettate qualche secondo e non si sente niente, perché io ancora, siccome parlo, non posso controllare al momento il flusso se sta andando o meno. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@dcc.org, per chi vuole mandare scritti, comunicati, notizie di controinformazione da pubblicare sul sito di radiazione, radiazione.org, dove trovate quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete scaricarvi un po' di materiale che anche voi dovete aiutarci attraverso le spedizioni, materiale che si vuole mettere gratuitamente in circolazione attraverso la pagina download del sito di radiazione, dove già ci sono un bel po' di opuscoli, libri, manifesti, cd e quant'altro. Invece sul sito, oltre alla controinformazione, ovviamente potete andarvi a riascoltare anche le dirette d'azione vecchie attraverso la categoria ascoltare dirette d'azione. Ci sono tutti i podcast da un anno e mezzo a questa parte, o il giorno della diretta potete ascoltare radiazione o tramite il flash player, il lettore flash player che trovate in sidebar sul sito in home page, oppure cliccando sul banner che annuncia la diretta del giorno. Oggi diretta d'azione che riguarderà solo controinformazione, qualche riflessione, qualche provocazione che fa parte di radiazione e provocazione, quindi fa anche rima, e ovviamente la musica per intervallare una notizia dall'altro, non rendere il tutto troppo pesante anche attraverso la mia voce del cazzo. Quindi allora, invece per lunedì l'appuntamento, il lunedì è l'altro giorno della diretta d'azione, è l'appuntamento in cui leggiamo con Marcello i libri che non sono testi anarchici, ma che comunque affrontano degli argomenti, anche se romanzati, sono romanzi la maggior parte, no, quasi sempre sono stati dei romanzi che bene o male hanno un qualcosa di affine con le tematiche affrontate sul sito di radiazione. Quindi per chi vuole ascoltare il continuo, stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, per chi non lo sapesse. Quindi l'appuntamento con Marcello e la lettura di Edward Snowden ci ascolta, non mi fa ascoltare, di Edward Abbey con I Sabotatori. Non è proprio un lapsus freudiano Edward Snowden, oramai si sente a ripetizione, ho messo anche io una piccola notetta giusto per chiarire sul sito qualche giorno fa, e quindi ora Edward Abbey si è trasformato in Edward Snowden, non me ne voglia Abbey. Allora, ora ci ascoltiamo un brano prima di partire con la diretta d'azione, anche se non so a questo punto se già è caduta la connessione, se sta per cadere. Allora, ci ascoltiamo un brano di Flashfield, il brano è Heretic, e poi dopo si torna qui e si inizia la diretta d'azione con la prima notizia di controinformazione della giornata. We'll be right back. E questi erano i Flash Fade con il brano di Heretic. Ora, come dicevo, si passa alla prima notizia di controinformazione, ricordando, mi ero dimenticato, che Radiazione comunque non è solo in italiano, ma c'è anche il sito in croato, lo stesso sito ma in croato, non ci sono le stesse, quasi sempre le stesse notizie, però comunque il progetto è bene o male, è lo stesso. Quindi approfittiamo per salutare la compagna che sta ascoltando, sicuramente, che porta avanti il progetto di Radiazione in lingua croata. E saluto anche Marcello, che con cui ci vediamo lunedì prossimo qui per la lettura di Sabotatori di Edward Debbie. Allora, prima notizia che ci fa avere proprio la compagna che porta avanti la Radiazione in croato, l'ha spedito proprio pochi istanti prima che iniziasse la diretta, è già pubblicato sul sito di Radiazione, e riguarda la Grecia, dove c'è l'aggiornamento sul processo per la rapina alla banca Ate a Purgetos. Allora, leggiamo l'aggiornamento. L'udienza del 30 aprile 2014, processo iniziato con la lettura dei documenti dell'unità antiterrorismo, in cui ad un certo punto si afferma chiaramente che non è stato trovato nessun DNA del compagno Sarafudis. Era arrivato un messaggio, siccome qua ci mandiamo i messaggi per capire se è caduta la linea, la connessione, stavo leggendo appunto questo. Allora, non è stato trovato nessun DNA del compagno Sarafudis. Dopo questo il padre di Sarafudis ha testimoniato in difesa di suo figlio Athanasios Sarafudis, che per anni è stato un sindacalista nella lotta di Kavala, città della Grecia settentrionale, ha risposto con la calma a tutte le domande provocatorie poste dal giudice. Tra le molte cose che ha detto, ha ricordato che la sua famiglia è una famiglia democratica, che i suoi figli sono stati cresciuti con valori etici e che gli è stato insegnato di essere sempre solidali con le lotte del popolo. Ha anche affermato che nei decenni passati erano i comunisti nemico dello Stato e che adesso invece sono gli anarchici. Quando sono state poste delle domande riguardanti le accuse a carico di suo figlio, ha detto che suo figlio non ha nulla a che fare con le accuse, perché se fosse in qualche rapporto con esse avrebbe sostenuto e rivendicato le sue azioni. Dopo la deposizione del padre era stato il turno di Grigoris Sarafudis. Grigoris ha letto una dichiarazione scritta, Grigoris è il compagno accusato. Voglio sottolineare che con questo testo, legato alla mia posizione in merito alle accuse e anche alla mia percezione della realtà, in nessun modo invoco la difesa, perché non c'è nulla da invocare nell'aula di un tribunale. Io nego tutte le parti dell'accusa, compreso quella che mi accusa di partecipazione e appartenenza alle CGF e di partecipazione alla rapina bagate a Purgetos. Non ho mai partecipato alle CGF, ho dichiarato questo fin dall'inizio. Il DAEEB, Unità di Terrorismo della Grecia, a braccetto con le autorità giudiziarie, ha adattato questa accusa specifica per poterla estendere ad un numero di anarchici recentemente arrestati, basati sulla legge speciale 187A, che mira alla manipolazione e alla omogenizzazione delle varie tendenze anarchiche, inglobandole nelle posizioni politiche e negli atti di questa organizzazione specifica. Personalmente non analizzerò qui i miei argomenti politici con le CCF, perché penso che l'aula del tribunale non è il posto adatto per queste cose. Per quanto riguarda il DNA, che sembra essere l'unica prova contro di me nella rapina di Purgetos, tutto quello che ho da dire è che le vostre procedure non permettono il riesame del campione, contribuendo alla sacralizzazione della perizia dei laboratori della scientifica, attribuendole in questo modo il titolo dell'infallibilità. In più voglio aggiungere che credo che il DNA scientificamente dimostrato, anche se stessimo parlando di un ritrovamento realmente esistente, non conferma comunque alcuna presenza fisica. Inoltre è ben noto con quanta facilità può essere trasferito o ricevuto. A questo punto dirò come io vedo la realtà che tutti noi stiamo vivendo in generale. Quello che posso dire per certo è che l'ultimo decennio, particolarmente il periodo dal 2008 in poi, è stato caratterizzato da intensi cambiamenti nello scenario politico-economico, finalizzato esclusivamente a mantenere il crimine chiamato capitalismo globale. Perché ciò avvenga, utilizzando la notoria crisi economica come giustificazione, è stato istituito un gioco geopolitico internazionale con lo scopo di trarre profitto dalla maggior parte della popolazione, portando con precisione matematica ad un ulteriore sfruttamento a tutti i livelli. In specifico, il meccanismo statale ha gettato la sua maschera democratica per rivelare un regime totalitario già sperimentato e per mantenere il suo potere obbedisce agli ordini delle organizzazioni criminali globali UE, FSE, FMI e dà inizio ad un attacco frontale a tutti i livelli: lavoro, istruzione, salute, tassazione, passando direttamente alla violazione dei diritti conquistati in passato con lotte sanguinose. Con l'aiuto di tutto il suo arsenale di strumenti giuridici continua il suo indebitamento eccessivo post-dittatura con le stesse organizzazioni criminali, cercando di celare le rapine del governo e anche per ricapitalizzare con dei numeri evasivi per una persona comune il sistema bancario nazionale, proteggendo in questo modo l'infrastruttura fondamentale del capitalismo. Il peso completo di questo indebitamento eccessivo, come dal rifinanziamento dei soldi usurai, è messo sul debito non solo dalla popolazione odierna, ma anche sulle generazioni future. Così, in conseguenza di quanto detto sopra, l'agitazione sociale è emersa dalla coesione sociale rudimentale del passato, e a questo punto le forze repressive, assieme alla giustizia, svolgono un ruolo cruciale, pronte a schiacciare qualsiasi ostacolo, qualsiasi tipo di resistenza che incontrano, compresa la violenza diretta o indiretta, con tutti i mezzi necessari. Per riassumere, stiamo vivendo l'intensificazione di una guerra sociale, di classe, in cui da una parte abbiamo un meccanismo statale totalmente corrotto, a braccetto con le autorità legislative e ovviamente con la maggioranza dei media, che vogliono mantenere l'economia e di conseguenza i profitti delle elite locali e internazionali a qualunque costo e sacrificio, trasformando il lavoro in schiavitù, portando miseria all'esistenza umana e perpetuando l'oppressione della società in cambio di profitto. Contemporaneamente l'apparato giuridico poliziesco sta mostrando la sua presenza, adottando il dogma della tolleranza zero, pronto a fornire la protezione necessaria ai suoi supervisori, come ha fatto sempre, e a reprimere ogni elaborazione che minaccia i loro piani. D'altra parte abbiamo invece quelle elaborazioni sociali che tra le persone quelle elaborazioni sociali tra le persone che mettono in dubbio i superpoteri della macchina statale, che rifiutano di accettare il futuro in cui saranno costretti a vivere, e in questo modo stanno reagendo e resistono a livello personale e collettivo, creando nelle attuali lotte radicali dirette, dirigendosi verso la loro emancipazione dalla subordinazione e dallo sfruttamento. A mio parere, la parte più stimolante della resistenza contro questo totalitarismo è un futuro buio, verso cui porta il movimento anarchico anti-autoritario. Funzionando solo con delle strutture orizzontali e rifiutando la legittimità civile, senza alcun tipo di gerarchia, riesce a mescolare diverse percezioni, pratiche e scelte personali, sostenendo sistematicamente la tesi politica come inseparabile dall'azione, partecipando attivamente con delle lotte diverse contro ogni tipo di autorità in una procedura rivoluzionaria in corso. Così ho rifiutato il dominante codice del valore che promuove la concorrenza cannibale, l'egoismo e il razzismo, e sono contro ogni istituzione che riproduce l'autorità, sia politica o economica, allo scopo di manipolare, sfruttare e limitare la libertà umana in un determinato contesto, rivendicando l'oppressione degli esseri umani e della natura da parte dell'uomo. Ogni ostilità dello Stato civile, delle sue procedure, degli stereotipi o dei valori putridi che ha cercato di imporre su di me ha segnato il mio autosuperamento, il mio rafforzamento mentale e il mio cammino lungo la via della ribellione e dell'insurrezione. Così, Passo dopo passo, le parole come dignità, solidarietà, uguaglianza, spirito, compagno e libertà hanno smesso di essere delle semplici parole e hanno preso forma dentro di me, permeando la mia interiorità e le mie relazioni con le persone intorno a me, non lasciandomi aspettare l'arrivo di un domani, ma bensì facendomi pensare, agire e vivere oggi. Così oggi, con una fiamma nel mio cuore e con il mio sguardo fermo saldamente al cielo, mi sento più sicuro che mai in tutto quello che ho scelto di essere nella mia vita. E dichiaro a voi che sono un anarchico irriducibile contro tutto quello che voi rappresentate e proteggete. Per finire, voglio dire che è una mia scelta personale di essere presente a questo processo terrore. Ed è una mia scelta personale di non aprire nessun dialogo o di rispondere ad una qualsiasi domanda. Il processo continuerà il 3 giugno con la proposta dell'accusa per la sentenza. E questo è il testo che dicevo, ci ha fatto arrivare la compagna di radiazione in lingua croata proprio pochi minuti prima che si andasse in diretta. Ora io faccio una pausa, c'ho da bermi un litro d'acqua. Oggi sto senza cicchetti, sto senza vodka. A meno nessuno può dire che mi ubriaco da questa parte, non c'è aria viziata, si respira il caldo della cameretta e devo ancora accendere il ventilatore. Quindi nel frattempo che faccio tutto, bevo, accendo il ventilatore e mi accendo la sigaretta, ci ascoltiamo un brano di Filament 38, il brano è Recollection, e dopo si ritorna qui con una nuova notizia di controinformazione. E questi erano Filament 38 con i brano Recollection. Ora, dopo aver fatto tutto, ho acceso tutto, sigarette, ventilatori, stavo dando fuoco alla camera, ho preso un po' d'aria, un po' d'acqua, ti passiamo al, alla controinformazione, passando dalla Grecia all'Italia. All'Italia avevamo letto già nell'ultima diretta il testo di Adriano, il compagno arrestato a Roma il 19 settembre scorso insieme a Gianluca, accusati di una serie di attacchi, 13 più precisamente, alcuni dei quali Gianluca ha rivendicato da solo, dicendo che è stato lui da solo a portarli avanti. Adriano aveva letto invece avevamo letto il testo di Adriano in cui diceva che non avrebbe presieduto davanti alla telecamera che l'avrebbe processato, si parla del processo in videoconferenza. E allora andiamo agli aggiornamenti. Praticamente è stata la prossima udienza è rinviata al 4 luglio per Gianluca e Adriano. Ad 8 mesi dall'arresto di Gianluca e Adriano, anarchici dei Castelli Romani, era prevista per la giornata di ieri, 26 maggio, la prima udienza del processo in cui sono imputati e che li vede accusati di associazione con finalità di terrorismo, oltre che di incendio, furto aggravato in concorso, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Le accuse per cui sono sotto giudizio sono riferite ad una serie di sabotaggi realizzati nel territorio dei Castelli Romani nei confronti di alcune banche, di una pellicceria, di sedi distaccate di Eni ed Enel e della discarica di Roncigliano. In occasione di questa prima udienza, la giudice ha nuovamente confermato la richiesta del PM Minisci, stesso che rappresenta l'accusa nell'ambito del processo per il 15 ottobre 2011, di svolgere il processo in videoconferenza. A sostegno di Gianluca e Adriano, sottoposti al regime di detenzione in alta sorveglianza rispettivamente nelle carceri di Alessandria e Ferrara, per non far passare nel silenzio e nell'indifferenza all'adozione di uno strumento, quello della videoconferenza, che tende a isolare, demonizzare e disumanizzare ancora di più la condizione di chi è prigioniero, era stato indetto un presidio. L'udienza non si è svolta per motivi tecnici legati alla nomina dell'avvocato di difesa di Gianluca ed è stato quindi rinviato al 4 luglio, come abbiamo detto in apertura del comunicato. Una volta arrivata la notizia del rinvio dell'udienza, è stato improvvisato un corteo all'interno del tribunale, scandendo cori, lanciando volantini di solidarietà nei confronti dei prigionieri contro l'utilizzo della videoconferenza. Anche se solo per qualche minuto, nei corridoi del tribunale di Piazzale Clodio a Roma è ribombato l'eco delle voci solidali con Gianluca e Adriano, per ribadire che chi lotta non è mai solo e che nessuno strumento, nemmeno la videoconferenza, potrà rompere la solidarietà tra chi si ribella. Ancora una volta è stato un modo per ribadire che il terrorista è chi devasta e saccheggia la terra, chi sfrutta e opprime ogni forma di vita. Solidarietà per Gianluca e Adriano, no all'utilizzo della videoconferenza. E questo era il comunicato preso da un altro sito riguardante l'aggiornamento sul processo a Gianluca e Adriano, che da parte mia purtroppo loro non sentiranno la radiazione, perché non c'è, in Italia non ci sono i computer, da altre parti arrivano anche le mail dal carcere, però in Italia niente, zero, caput, niente, quindi ovviamente può essere pure che non conoscono la radiazione, quindi sti cazzi. Però un abbraccio forte e tanta solidarietà va anche da parte del sottoscritto di radiazione ai due compagni sotto processo, che stanno affrontando per l'appunto questo processo in videoconferenza, proprio perché li si vuole isolare da tutto il resto dei compagni anarchici solidali con loro. La stessa cosa, cioè, è un po' un continuo modo di agire della magistratura, l'hanno fatto ultimamente anche con uno sgombero a Genova, hanno sgomberato il Mainasso prima facendo una grande campagna di demonizzazione per quanto riguarda i compagni anarchici genovesi o buona parte dei compagni genovesi. Ricordo che i PM genovesi qualche mese fa avevano chiesto l'arresto di alcuni compagni, arresti che, non so, che sono stati rifiutati dai loro stessi colleghi che però presiedono il banco di fronte, quelli che alla fine hanno la parola definitiva sulla vita dei compagni, innocente, colpevole, 8 anni di carcere o libertà. Quindi è un modo che comunque è un modo di cercare di allentare la forza solidale che si sta creando anche intorno ai compagni anarchici in Italia, e fortunatamente ultimamente si sta un po' notando di più rispetto agli anni, a qualche anno fa, o 1, 2, 3 anni fa, in cui c'era la morte generale. Io faccio un esempio, tipo per l'operazione a dire, io non mi ricordo un cazzo, che non mi ricordo tutto questo movimento, non mi ricordo tutto questo movimento all'indomani dell'arresto di Alfredo e Nicola a Genova, anche se per un fatto totalmente molto più forte rispetto all'operazione Ardire, rispetto a Gianluca Adriano, rispetto ovviamente rispetto al Mainasso, che è solo un'occupazione. Insomma, forse qualcosa si sta muovendo in termini di solidarietà. Poi la solidarietà uno preferirebbe che arrivasse in tanti modi. Chiudiamolo qua, non andiamo oltre, altrimenti se non ci hanno fatto cadere la connessione ora, finora ce la fanno cadere tra qualche minuto. Allora ci ascoltiamo un brano Black Lung, un brano che lo dedico al popolo brasiliano, che purtroppo in questi giorni ha a che fare con quei pezzi di merda dell'organizzazione dei mondiali di calcio in Brasile, e che praticamente stanno facendo sfracelli nel paese brasiliano. E la notizia bella arriva, che ho visto anche su qualche giornale, è che sono scesi all'offensiva anche gli indigeni con archi e frecce, e hanno azzoppato qualche sbirro di merda. E questa è la notizia bella che arriva anche da quelle parti. Un'altra notizia bella la leggeremo dopo, perché tra le notizie di controinformazione che leggeremo oggi. Ora vi lascio con i Black Lung, e il brano è The Battle of Brazil. E questi erano Black Langhorne, il brano The Battle of Brazil, per l'appunto dedicato alla popolazione, almeno quella parte di popolazione in Brasile che si sta ribellando ai mondiali di calcio, in cui ci sono cariche, arresti, scontri, qualche morto, insomma. Anche se non se ne è parlato abbastanza sul sito di radiazione riguardo a questo tema, però comunque si porta la vicinanza al popolo brasiliano che si ribella in quelle strade. Allora, prossima notizia, avevamo accennato poco fa dello sgombero del Mainasso a Genova. I compagni del Mainasso stesso ci fanno avere tramite mail il volantino che hanno scritto, un testo: il Mainasso soffia ancora. Questa notte, 27 maggio, la questura ha sgomberato con un imponente spiegamento di forze il Mainasso occupato da appena due mesi. Ciò non ci scoraggia, ma anzi ci spinge ad andare avanti per la nostra strada senza esitazioni. Per due mesi uno spazio di proprietà delle opere pie, il famigerato ente morale, abbandonato da tempo e che tale rimarrà blindato e oscurato, è stato sottratto alle dinamiche imperanti del profitto, della passività e dell'alienazione. Non ponendosi obiettivi specifici a termine, con un semplice fondo di pochi metri quadrati è diventato un posto di ritrovo per chiunque si ostini a voler vivere il piacere dell'incontro, della condivisione e del confronto, per chiunque si ostini a voler vivere ancora le strade. Un posto dove ospitare iniziative, cineforum, cene, incontri, sempre con la priorità di sostenere e portare la solidarietà a chi è colpito dalla repressione per essersi battuto contro questo stato delle cose, contro questa società infame nella quale vorrebbero costringerci a vivere. Uno spazio ritorna al suo precedente stato di inerzia, ma chi lo ha vissuto non intende limitarsi in alcun modo. Per questo le iniziative previste verranno mantenute a partire da stasera con luoghi e modalità che saranno comunicati di volta in volta. E poi c'è la lista delle iniziative che leggiamo praticamente quella da lunedì 2 giugno, perché quella che loro dicevano stasera a 21 a Piazza delle Erbe. Allora, lunedì 2 giugno dalle 19, presentazione del progetto editoriale Croce Nera Anarchica. Venerdì 6 giugno dalle ore 19, presentazione dell'opuscolo Dividi et Giudica, il labirinto processuale del 15 ottobre. Sabato 7 giugno dalle ore 18, aperitivo in sostegno ad un compagno sotto processo per i blocchi stradali avvenuti in seguito alla morte di un operaio in porto nel 2007. Dove cazzo ho letto nel 1900? Nel 2007, c'è scritto a chiari numeri cubitali. Ancora, per la rivolta, per la libertà. E questo è il testo dei compagni di Genova che hanno scritto dopo lo sgombero. Per chi vuole scaricare il volantino può farle dal sito di radiazione, sotto l'articolo alla fine c'è scritto scarica qui il volantino, ci cliccate sopra, vi si apre il PDF, basta fare salva. Lo dico per i più ignoranti, perché molto spesso c'è gente che dice: e come faccio a salvare? Si salva così, vi si apre il PDF, spostate la freccia in basso a destra del mouse e vi appare la finestrina dove c'è il dischetto, ci cliccate sopra e salvate dove cazzo volete. Allora, questa era per quanto riguarda la notizia dello sgombero al Mainasso, il posto occupato dai compagni anarchici genovesi. Ora andiamo avanti con un altro brano musicale. Loro sono Die Lederkranz, e ora si è connesso Marcello, ora mi fa il culo sulla pronuncia, Ersatz für ein Raumschiff, speriamo che l'ho detto bene. E poi dopo si torna qui con un testo scritto da radiazione, una risposta ad un testo praticamente due palle così. Ein neues Leben erwartet erwartet dich in den Kolonien fern unserer Welt. Die große Chance, neu anzufangen in einem goldenen Land voller Möglichkeiten und Abenteuer. Mir nichts als ein hohes Schiff und die Sterne über mir. Dann kannst du den Wind in deinem Rücken spüren und das Rauschen der See unter dir. Und auch wenn du den Wind weglässt und das Wasser, es ist das Gleiche. Du hast ein Schiff und du fühlst es. Und die Sterne sind über dir. Brücke an Captain Kirk. Ja, Kirk, was gibt's? Ovviamente mi è arrivato un messaggio di Marcello che mi diceva: hai sbagliato la pronuncia, quindi non lo dico più. Dear Liederkranz, almeno il nome del gruppo spero di averlo azzeccato. Allora, dicevo, al prossimo uno scritto mio e sottoscritto, dopo aver letto ieri sera un articolo su un giornale di movimento di cui non faccio il nome perché se non l'ho pubblicato sul sito di radiazione è perché non mi ci ritrovo, cioè non è che non mi ci ritrovo, trovo un bel po' di cose che non mi tornano i conti su certi discorsi, perché fatti da certa gente, certi discorsi a me mi suonano del ridicolo. Poi il giornale circolerà, si saprà da dove arriva il giornale e poi non farà ridere solo a me, ma farà ridere anche a qualcun altro vedendo i temi affrontati. Ovviamente sono più compagni, qualcuno lo conosco e lo rispetto, altri non li rispetto per niente, quindi ho letto su queste pagine, su questo nuovo modo di riciclare, di riciclarsi, uno stesso argomento che avevo letto tempo fa da un altro giornale cartaceo fatto da alcuni di questi compagni. La solita surfa per quanto riguarda uno degli articoli è quello che riguarda, è un bel giornale pieno di critiche, ci sono varie critiche, poi ognuno legge e ne trae le sue considerazioni, come molte critiche, però non ho trovato niente di propositivo. Allora, dicevo, solita truffa contro il modo di fare controinformazione sul web, su cosa è la controinformazione sul web, l'utilizzo della tecnologia, le solite cose, vari testi che sono stati affrontati già varie volte, che varie volte ho criticato, ho risposto. Stavolta spero di averne veramente due palle, così come dice il testo. Allora, passiamo direttamente, poi un giorno leggerete il giornale, leggerete l'articolo e forse farete il collegamento tra questo mio scritto e quello da che lo ha provocato. Allora, da queste pagine, perché anche quelle di siti e blog nascono dalle stesse pagine da dove nascono mezzi di propaganda teorici cartacei, lo ricordo che Open Office o Word si scrivono i testi e poi si stampano al negozio oppure si incollano sul sito web. Da queste pagine ultimamente è stato criticato da sottoscritto un certo modo di fare controinformazione. Eh sì, torno sull'argomento perché vengo spinto a furia di leggere delle vere e proprie diarree contro la controinformazione via web. Ovviamente chi porta avanti progetti via web è consapevole con cosa si va a scontrare e delle contraddizioni nell'usare tale mezzo tecnologico. Parlo in prima persona perché sono allergico a parlare con noi, poi risponderanno gli altri se vogliono rispondere un giorno, ma penso di no, visto che l'andazzo di altri siti e blog non lo vedo tanto per la, cioè non vedo nessuna un'analisi e nessuna riflessione se non riportare nella gran parte di siti e blog le notizie, un copia e incolla di notizie e traduzioni, senza lasciare una propria impronta, cosa che Radiazione fa anche litigando con tutti. Però Radiazione, come un giornale, come faceva per affinità, periodico insurrezionalista, dice la sua, non incolla solo alle notizie. Quindi parlo in prima persona perché sono allergico a parlare con noi. Il noi non mi appartiene, lo rifiuto categoricamente. Io sono consapevole di quello che utilizzo e come lo utilizzo. E voi che criticate per poi informarvi attraverso le mie contraddizioni, siete consapevoli delle vostre? Voi che dite di non possedere la verità in tasca vi arrogate il diritto di essere a conoscenza di qualcosa che nemmeno conoscete. O fate finta di non sapere per costruirvi il vostro falso personaggio da portare in giro come una maschera. Voi che per dimostrare che siete più belli, più fighi, più coerenti, più anarchici, dovete per forza sedervi su una tazza fatta di carta per liberare le vostre diarree contro quello che fanno altri individui. Voi che mi chiamate illuso, non solo a me, di aver costruito relazioni con altri compagni fisicamente lontani, definendo i miei rapporti dei contatti in una rubrica di indirizzi email. Viene da tossire, mi verrebbe da mandarle a fare il culo. Cosa ne sapete voi di che tipo di rapporti si instaurano tra compagni che portano avanti progetti di controinformazione via web, dato che non ne fate controinformazione via web? Vi consiglio un bel Tampax da applicare davanti alla bocca ed ingessare le vostre mani con cui scrivete con due pannolini prima di giudicare i rapporti umani altrui. Radiazione fino a qualche mese fa era solo in italiano. Ora c'è anche in lingua croata, e non certo perché la compagna che porta avanti il sito in croato era ed è rimasta un semplice contatto nella rubrica. Ci sarebbero tantissimi esempi, ma siccome non ho mai presenziato ad una sola udienza dei processi in cui sono stato imputato in passato, non starò qui a dare prove a qualche sapientone, o perlomeno che si crede tale. Quali sono i miei rapporti con altri compagni che utilizzano la rete per portare avanti progetti simili o quasi simili a radiazione? Sono e saranno solamente e per sempre cazzi miei, e solo io posso sapere che tipo di rapporti sono. Per quanto riguarda il discorso sentito più volte che la rete, a differenza del cartaceo, non crea dibattito tra i compagni, se forse che in chi avanza tali critiche vi chiederei: ma sono sicuro o sicura che io e l'altro individuo che fa controinformazione via web vogliamo le stesse cose? Vi siete mai chiesti se io non voglio... perché io non voglio avere a che fare con gran parte del movimento anarchico italiano, perché mi ha nauseato in più di un'occasione? Altri dimenticano le cose accadute, io no. Altri ricordano solamente le contraddizioni altrui, io no, ricordo quelle di buona parte del movimento anarchico italiano. Ricordo troppo schifo per far finta di nulla. Altri hanno preferito privilegiare qualcun altro in passato, forse perché più amico o forse perché più bravo dialetticamente o a portare una maschera, nonostante la cruda realtà sbattuta in faccia. Allora io privilegio i prochissimi rapporti con i compagni con cui, anche se non si è d'accordo su tutto, ci si è sempre rispettati. E allora preferisco di non avere un cazzo a che fare con buonissima parte di quel movimento che non si muove, anarchico italiano. Non sono comunista e non voglio farmi due palle così, con piangersi addosso tra compagni o presunti compagni. Preferisco portare avanti da solo un progetto come Radiazione, in cui ci metto tutto me stesso, pensieri, faccia e voce, e non frequentare chiese per avere l'abilitazione ad essere anarchico o la cosiddetta patente. Ho preferito in passato farlo in modo cartaceo ed ora su web, con il mio linguaggio non proprio politicamente corretto, perché penso che le cose dette in modo neutrale, naturale, siano più percepibili di quelle dette attraverso il riciclaggio di termini e frasi fatte in modo filosofico. Lo faccio attraverso la provocazione, perché mi diverte, perché non sono un anarchico triste con la morte nel cuore. Questi sono i miei pensieri, i miei motivi. Per ogni compagno che porta avanti un progetto anarchico sul web, ha i suoi, ovviamente. Le differenze tra web e cartaceo sono che uno è gratis, per modo di dire, perché poi si paga la DSL, e l'altro no. Che uno è più veloce dell'altro nel fare circolare notizie di controinformazione e l'altro no. Che il cartaceo viene presentato iniziative organizzate apposta e l'altro no. Uno utilizza la tecnologia, l'altro utilizza gli alberi da cellulosa abbattuti appositamente per la carta e inchiostri chimici, eccetera, eccetera. Stesso discorso sull'arroganza di definire i miei rapporti con altri compagni vale per quanto riguarda i miei presunti arti atrofizzati a causa di stare davanti ad un computer, come dicono sempre tali sapientoni. c'è chi si atrofizza davanti al PC fisicamente e chi si atrofizza mentalmente in una sede anarchica. A me basta un po' di stretching per riprendere eventualmente la mobilità degli arti. Il cervello è un po' più difficile da recuperare, specialmente quando non ha sbocchi oltre la propria cerchia o setta, che non ti permette di vedere al di là del muro di una chiesa o di rapportarti se non con la tua confraternita. Un determinato modo di pensare è una ragnatela romantica che ti attrae ad essa attraverso le gesta di alcuni individui del passato. È il carcere costruito intorno ai cervelli che non ti permette di evadere, oltrepassare le mura di cinta di pensieri in decomposizione e pestiferi capaci di infettare altri cervelli. È la vera pestaniera del secolo in corso che si espande attraverso i pacchetti preconfezionati di pensiero e lotta. Come per gli antichi egizi, anche oggi le mummie, con i propri sarcofagi e templi costruiti sulla menzogna, mantengono la propria autorità sul popolino anarchico. Se non sei come noi, allora sei una merda. Allora ben venga essere una merda, che attraverso il suo fedore tiene lontani tanti, ma non tutti. Analizzare o criticare sono solo un bene e un motivo per aprire futuri dibattiti. Il giudicare è un'altra cosa, esso prevede sentenze. Il dare patenti e l'arroganza di avere sempre e comunque la verità in tasca è autoritario. Le varie lotte o le varie sedi anarchiche non sono conventi da cui chi ne esce viene visto attraverso la morale religiosa anarchica come un eretico. La ricerca assidua del dibattito preconfezionato tra i compagni anarchici non lo trovo di mio piacimento, perché molto spesso sono una lagna interminabile, quindi se devo rapportarmi preferisco farlo quotidianamente con la gente comune per strada o in un bar. Anche loro, individui, possono regalarmi le proprie esperienze, i propri pensieri con cui confrontarsi. Tornando all'utilizzo della rete per la controinformazione, invece mi ritrovo sulla critica che spesso ho sentito fare ultimamente su creare gli eventi anarchici. Ma anche qui non mi azzardo più di tanto a criticare, perché non so se da un'altra parte del mondo una settimana o una giornata di solidarietà sia stata organizzata da un gruppo di compagni o dal singolo individuo nerd. Sono contrario alle chiamate di giornate e settimane di azioni via web, perché servono solo a rendere gli obiettivi più controllati in quel periodo, e specialmente perché possono far cadere qualche compagno giovane nella trappola della repressione. E qui faccio autocritica alla faccia di chi si ritiene sapientone, perché mi è capitato di pubblicarne qualcuna di queste chiamate, ma da ora in poi si volta pagina definitivamente e su molte cose. Sono contrario ai progetti numerati che mi sanno di soppopera, specialmente quando il testo parla in modo più violento dell'azione fatta. Sono contrario ai siti e blog che pubblicano tutto e la qualunque cosa, creando solo dubbi e trasformando completamente il pensiero anarchico. Mi disgusta leggere sul web che una scritta sul muro, uno striscione o un palloncino colorato venga passato come un'azione diretta. Altrettanto sono disgustato da quelli che oggi in modo modaiolo vengono definiti selfie, o selfie non lo so come cazzo si dice, degli scontri o davanti ad uno striscione con il pugno alzato. Questo è il male di internet e della rete per il sottoscritto, e non le paranoie di qualche sapientone che preferisce defecare sui progetti altrui per farsi bello o bella davanti ai sensibili e purtroppo anche davanti ad alcuni anarchici sottomessi. Radiazione 30 maggio 2014. Questo era il testo in risposta a questo scritto che ho letto e che, ripeto, non dirò da dove ho preso, tanto prima o poi questo giornale sarà in circolazione, quindi chiunque avrà modo di leggere di leggerlo chi è più intelligente o chi si ricorderà di questi miei deliri potrà collegare il tutto. Quindi niente nomi non ne faccio, non mi serve, anche perché nel giornale, in quel giornale ci sono dei compagni che lo ripeto che stimo, con cui già mi sono già mi sono confrontato qualche volta, però ciò non toglie che un giornale, anche se fatto in, cioè anche se uno stima alcuni compagni, un giornale fatto in modo collettivo vuol dire che c'ha la supervisione, almeno da quello che penso io, c'ha la dovrebbe averci praticamente la, l'approvazione, una, un'organizzazione, diciamo, la grossa orizzontale. Un'organizzazione orizzontale in cui tutto si decide cosa pubblicare, non ci sia la censura, penso, comunque ti deve un attimo per arrivare a fare un tipo di progetto insieme, comunque devi averci una certa affinità, e quindi anche se, cioè, se stimo qualche compagno che è presente in quel progetto, non, non posso negare di esserci rimasto di merda, perché tale arroganza di definire i rapporti, ma no, io ho detto i miei perché ho parlato in prima persona, però comunque la cosa era riferita a tutti i siti, a tutti i blog, a tutta la gente, a tutti i compagni che fanno controinformazione sulla via web. Ovviamente io lo ripeto, ci sono molti siti, molti blog che andrebbero cestinati, andrebbero buttati, perché confondono le idee, confondono maledettamente le idee con loro andare a pubblicare la qualunque cosa, quindi sono siti inutili, servono solo a creare dei scompigli, già ci sono tante incertezze. Un determinato modo di andare a fare controinformazione aumenta certe incertezze, però questo non vale per tutti i siti e per tutti i blog, non vale per tutti i siti e per tutti i blog, perché c'è chi si è fatto la galera per un blog, c'è chi se la sta facendo ancora, c'è chi ha organizzato iniziative in Grecia, a Salonicco l'anno scorso, è stato arrestato qualche giorno dopo, parlo di Spiros Mandilas, arrestato per il progetto Fenice, ma in realtà aveva organizzato un'iniziativa per la controinformazione internazionale al posto occupato a Salonicco, dava noia che comunque ovviamente, cioè, se si facesse in Italia potrebbe accadere la stessa cosa, quindi compagni che comunque non sono solo dei contatti in una rubrica, ma sono compagni che organizzano delle cose, che si vedono, che si conoscono, che si sentono. Non c'è bisogno di frequentare la sede anarchica, non c'è bisogno per avere il rapporto personale, perché molto spesso la relazione personale in una sede anarchica è molto finta. Ci si parla dietro, non ci si confronta, non c'è un cazzo di confrontarci, c'è sempre una persona più autoritaria dell'altro che riesce a confondere tutti gli altri cervelli, e quindi io preferisco avere un determinato tipo di rapporti con, anche se vedo tali compagni una volta ogni 3 mesi, una volta l'anno, una volta ogni 2 anni, preferisco vedere i compagni che possono fare con cui mi relaziono anche quotidianamente attraverso una mail, che non con gente che pensa di essere autoritario, anarchico. Quindi questo per quanto riguarda la differenza di rapporti e tutto. Per quanto riguarda gli arti atrofizzati, mi sa che qualcuno se li ha atrofizzati nell'umidità delle librerie, delle biblioteche e delle sedi anarchiche, gli arti, e non è mai uscito da quelle sedi. Però se tu non le frequenti non sei anarchico, e quindi, non essendo anarchico, stai davanti al computer e stai e c'hai gli arti atrofizzati, tu che stai nella sede, nella biblioteca anarchica, che stai incollato al computer, perché in ogni sede, in ogni biblioteca anarchica c'è un computer collegato 24 ore su 24, cioè almeno 24 su 24, differendo in quella piccola parte in cui è aperta la biblioteca, la sede, stai incollato al computer. Stai incollato al computer a vedere notizie di controinformazione. Allora giudichi le mie contraddizioni, però ti fai ti informi, ti rendi edotto sulle mie contraddizioni. Ho aggrovigliato un po' i pensieri, però, cioè, non lo so se mi sono spiegato bene, però andatevi a vedere le vostre di contraddizione, non andare a puntualizzare quelle degli altri continuamente, perché contraddizioni non le sappiamo, almeno io so la contraddizione di usare il web, la so e so come usarla, e so che criticare un determinato modo, un modo provocare attraverso il web, non cambia un cazzo di criticare e provocare attraverso un foglio di giornale, perché i giornali durante le perquisizioni vengono sequestrati e quindi gli stessi articoli che con provocazioni e con critiche vengono portati in questura e nei tribunali, allo stesso modo ci finiscono le pagine web. Quindi nessuna differenza, nessuna differenza. La creazione di dibattito, poi la creazione di dibattito è ancora una cosa che va ancora oltre, che io non riesco a capire, perché io che faccio un sito di controllo informazione devo per forza aprire un dibattito, a dibattito umano tra persone, cioè con le persone fisiche, perché lo devo fare? Forse se fossi in un'altra parte dell'Europa, un'altra parte del mondo lo farei, ma in Italia mi è passata la voglia. In Italia mi è passata la voglia perché ho visto schifezze, come dicevo nel testo, ho visto schifezze, ho visto le peggiori contraddizioni degli anarchici italiani tempo fa. Ne sono stato, non mi ritengo una vittima, però sono stato uno degli obiettivi su cui sputare merda quando c'erano delle prove scritte e gente da mandare a fare il culo ed eliminare definitivamente dal movimento. E invece, siccome gli altri sono più bravi, più fighi, più intellettuali, hanno un modo di approcciarsi un po' più paraculo di me, era meglio mandare a cagare me e non loro. Oppure è stato fatto per un fatto cattolico, un fatto di un cattolico di amicizia. Vabbè, ma ha fatto sta cosa, sarà pure una mezza bip, però è mio amico, quindi non si tocca, tocco te perché non ti conosco, oppure ti conosco da meno anni. Questo è il movimento anarchico italiano, questo è il movimento con cui io non mi ci voglio confrontare, ed ora sono 10 anni che non lo faccio più e non lo farò mai più. Io mi confronto solo con i compagni anarchici che ho rapporti da anni, ho nuovi rapporti nuovi rapporti che ho costruiti attraverso il progetto di radiazione, che ho avuto la possibilità di conoscere, tra l'altro una compagna con cui ci vediamo spesso, ci siamo visti spesso e che comunque abbiamo iniziato un percorso insieme, lei con radiazione in lingua croata e io continuando radiazione in lingua italiana. Questo è tutto, signor Sapientoni. Ora, dopo la mia diarrea, anche le mie sono diarree, io non mi offendo, ci ascoltiamo un brano, cerchiamo di trovare un branino un pochino più lungo perché ho la gola a pezzi, e poi dopo si torna qui con la controinformazione, una nuova notizia di controinformazione. E questi, giusto per farmi riprendere fiato, disintossicarmi dalle diarree altrui, erano gli Enodin con il brano Darken. E allora passiamo a cose un pochino più serie, là, di delle diarree. Passiamo di qualcosa che ci fa allegrare, come dice il nome, Porto Alegre. Brasile attaccato, tribunale militare e rivendicazione dei mezzi militari incendiati a febbraio. Leggiamo il testo che non ha bisogno di introduzioni. Ottieni ciò che dai. Siamo certi di non essere in ritardo per la commemorazione del 1 aprile 1964. Quindi ecco il nostro semplice regalo per tutti i militaristi e seguaci. Stare zitti e essere complici del colpo di stato del 64, che ha cambiato nome o forma ma che non è finito. Abbiamo portato il nostro contributo alla memoria combattiva che non fa pace né con i militaristi né con la democrazia. Possano le fiamme illuminare e portare solidarietà alla gente di Haiti, che subisce l'occupazione dell'esercito brasiliano, degli uomini d'affari e delle Nazioni Unite da più di 10 anni. Tra le altre schifezze, le dinamiche della dittatura militare sono riuscite a trasformare le sue generazioni di giovani in cretini rintronati tramite la censura, la scuola, la TV, la moda, il calcio e la povertà. Ci rattrista vedere che queste persone si sono trasformate in reazionari o ancora peggio dei bravi cittadini che hanno fatto le proprie scelte. Le critiche di ieri si sono adattate al sistema di dominio, vale a dire tutto. Oggi, tramite la democrazia, è possibile mantenere il dominio sulla gente col consenso, dove ogni persona sente di partecipare a un gioco politico, di decidere, non importa se vuoto o non cambia nulla, e chi decide veramente se la ride. La civilizzazione moderna ha raggiunto un grande livello di devastazione della terra, delle acque e di ogni vita che abita questo pianeta. Questo è il risultato della logica malata del comprendere che tutto ciò che esiste per servire alcune persone è trasformarsi in denaro. Le profondità della terra, ogni metro quadrato, l'acqua, gli alberi e la vita di ogni animale, incluso voi. Questa mancata comprensione del fatto che gli esseri umani sono solo un altro pezzo dell'ecosistema complesso nel quale abitano, piuttosto di essere il centro, è la radice dalla quale deriva l'enciclopedia degli squilibri. Siamo diventati così stupidi da inquinare l'acqua che beviamo. La tecnologia è sviluppata per servire meglio gli interessi di questa logica. Credere nelle neutralità della tecnologia è come credere nelle neutralità del poliziotto o del giudice. Le tecnologie favoriscono platealmente il dominio, il controllo e il profitto. Impianti idroelettrici, fabbriche, agrobusiness, microchip, telecamere di sorveglianza, organismi transgenici, biometrie, mondo virtuale di social network. Le nuove generazioni saranno ancora più obbedienti o manipolabili? Il futuro della tecnologia odora di fantascienza. Sarebbe meglio forse se queste parole non avessero senso, ma purtroppo le hanno. Abbiamo deciso di non restare zitti davanti alla televisione o di navigare nei social network, appagati dalla miseria della vita, domati dal consumo, nascosti dietro slogan o apparenze. Abbiamo deciso di fare la guerra a chi distrugge la terra e chi ci distrugge. Un saluto agli incappucciati che hanno preso a sassate il consolato tedesco a Berlino, così come alle migliaia di persone che hanno dichiarato guerra alla Coppa del Mondo, alla FIFA, nel corso dell'ultimo anno nelle strade brasiliane. È stato bello vedere una protesta contro il torturatore Pedro Selig, poliziotto e capo del DOPS, Dipartimento dell'Ordine Sociale e Politico, durante l'operazione Condor, presso la sua abitazione a piano terra del palazzo in Barbedo Street, nel quartiere Menino Deus a Porto Alegre. L'incendio di 10 veicoli nel cortile della caserma della Polizia Militare, 24 febbraio 2014, non è stato un fuoco amico. È stato semplicemente divertente vedere la Polizia Militare far fermare i propri soldati per 48 ore, accusandoli di un tale atto, e poi dichiarare con arroganza che solo un soldato poteva commettere un atto di tale audacia. dichiariamo di non essere amici della polizia. L'ingegno misterioso ha colpito ciò che rappresenta la polizia e ciò che e chi la polizia serve. È un assaggio infuocato di vendetta per Fabrizio Proteus, ucciso dai colpi d'arma da fuoco durante il corteo anti-cap a San Paolo il 25 gennaio 2014, per Rafael Vieira, senza tetto di Rio de Janeiro, arrestato a giugno 2013 e condannato in primo grado a 5 anni e 10 giorni, per i tre attivisti sequestrati dalla squadra Draco della Polizia Divisione di Repressione delle Azioni del Crimine Organizzato nello stato di Goiás durante l'operazione 2.80 Reais. Il 23 maggio 2014 a Goiana, sospettato di incitare attività violente. Per Amarildo Dias de Souza, abitante di una favela a Rio de Janeiro, che nel luglio 2013 è stato letteralmente sequestrato e ucciso dai poliziotti. Il suo caso è una delle tante scomparse per mano della polizia. Per tutti i giovani senza nome, di Cruzeiro, Bonia, Mare, assassinati o sequestrati ieri ed oggi. Per noi non ci sarà nessuna coppa, ci sarà rivolta. E come è stato detto in un comunicato anonimo del marzo 2014, titolato Guerra è guerra, questa guerra non è iniziata nel giugno 2013 e non finirà con la Coppa del Mondo. Forza alla lotta dei Kengang che difendono le proprie terre ancestrali. Vandali, selvaggi, anti-autoritari, l'alba del 22 maggio e viva nella nostra rivolta. E questo era il testo, Vandali, selvaggi, anti-autoritari, e la firma del gruppo di compagni che hanno portato questo attacco al tribunale militare e che rivendicano anche le auto bruciate a febbraio 2014. Siccome non c'era stata una rivendicazione, molti siti avevano pubblicato la notizia, io ho preferito di non pubblicarla in attesa che ci fosse una rivendicazione. Oggi è arrivata, quindi forse prossimamente metterò la notizia del febbraio in cui furono bruciate le auto militari. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Christ Analog con il brano Slime Ridge, e poi dopo si torna qui e si torna ancora una volta con una nuova notizia di controinformazione. System made him more than the real thing. His presence was strong, he did astound. Now everybody down on the ground. Pure, he did astound. Now everybody down on the ground. Come detto prima, questi erano Crash Analog con il brano Slide Ridge. Ora si passa alle ultime due notizie di controinformazione della giornata, dopodiché mando un brano e poi si chiuderà questa diretta di radioazione. Allora, prima di leggere le prossime due notizie di controinformazione, ricordo che il prossimo appuntamento con radioazione è per lunedì 2 giugno. Noi faremo la festa dell'Antirepubblica, gli altri festeggeranno la festa della Repubblica, con Marcello, con la lettura dei Sabotatori di Edward Abbey, ovviamente con la controinformazione e la musica. Ora passiamo alla prima notizia, una delle due notizie brevi che ci arrivano, una dalla Spagna, a Irugna, dove è stata buttata della vernice sul consolato italiano. Leggiamo il testo: in solidarietà con i compagni anarchici e accodandoci alla settimana internazionale in solidarietà con Nicola, Alfredo, Gianluca, Adriano, Marco Camenis, Mattia, Claudio, Niccolò e Chiara e tutti gli altri che non figurano in questa lista, venerdì 23 maggio 2014 abbiamo lanciato della pittura sul consolato d'Italia a Irugna, Pamplona, nei pressi della stazione centrale di polizia. Per questa volta è solo pittura, ma non ci fermeremo fino a quando non li vedremo tutti liberi. È per voi, compagni. Questo è solo il principio. 10, 100, 1000 nuclei anarchici. Questa era la prima notizia delle due. La prossima riguarda un opuscolo che ci fanno avere i compagni della biblioteca antiautoritaria Sacco di Vanzetti. La biblioteca è cilena. Io ho messo una nota in apertura, anche se non condivido un determinato modo di ricordare compagni che sono caduti combattendo, perché penso che l'unico modo per ricordarli degnamente sia facendolo attraverso la loro pratica di azione diretta e non con parole, video eccetera. Dicevo e diffondo dalla biblioteca antiautoritaria Sacca e Vanzetti questo muscoletto che mi è stato inviato, in cui ci sono per l'appunto le parole di varie individualità e collettivi anarchici in ricordo di Maurizio Morales, il Funky Mauri. Non prima però di ricordare alcune parole scritte un anno fa da un altro compagno che all'epoca era detenuto. Non scadiamo nel culto della carogna, non schiacciamo i corpi dei nostri fratelli e sorelle sotto metri di terra e non confondiamo le effigi di marmo con cui qualcuno crede di onorarli con la loro vera carne, ma come Ravasciol facciamoci profanatori di tombe e scoperchiamo i sepolcri per prendere in mano pugnali, detonatori, le pistole e la polvere nera che possono ancora colpire il nemico anziché arrugginire ed ammuffire nel ricordo. Sergio Maria Stefani. Ora invece praticamente l'opuscolo, questo opuscolo, come dicevo, ci sono vari testi in ricordo di Maurizio Morales a 5 anni dalla sua morte. Opuscolo letto, opuscolo distribuito durante un'iniziativa in cui c'erano una parte dei compagni che hanno scritto certi testi, altri testi arrivano dalle carceri sudamericane, una spagnole e greche. Ci sono le parole, un testo della biblioteca di autoritaria Sacco e Vanzetti, uno del collettivo anticarcerario Huele de Justicia, le parole di Sin Banderas di Fronteras, i compagni dell'Uruguay, le parole di Anthony Meyer, il testo di Carlos Gutiérrez Grileo, di Freddy Fentavilla, Juan Alice Vega, Marcelo Villarroel. Tra l'altro sto traducendo gli aggiornamenti sulla quinta e la sesta settimana processo per il caso Security, e prossimamente saranno visibili pubblicate sul sito di Radiazione, che per l'appunto riguarda i quattro compagni appena citati, tre per l'appunto, Freddy, Juan e Marcelo, e Carlos, che viene giudicato in un modo diverso. Non ho capito se c'è un processo diverso, si farà un processo diverso, o poi lo integreranno del tutto nel processo chiamato Caso Security. Poi ci sono anche le parole di Francisco Soral Dominguez, è un disegno di Monica Caballero, i due compagni cileni arrestati in Spagna per gli attacchi alla chiesa, i pensieri di Maurizio Morales, ho sbagliato a scrivere, di Radio Prima de Mayo, e parole della cospirazione delle cellule di fuoco in Grecia. Questo è quello che c'è nell'opuscoletto. Per scaricarlo, in fondo all'articolo che trovate sul sito di Radiazione, c'è scritto scarica qui opuscoletto, ci cliccate sopra, la procedura è la stessa di prima che ho detto, quindi è facile salvare e scaricare dal sito di Radiazione. Almeno cerco di fare le cose semplici, visto che io non sono così un genio in informatico per quanto riguarda il mondo web, nonostante sono due anni e mezzo che porto avanti la reazione. Allora, queste erano le ultime due notizie della giornata per quanto riguarda la diretta d'azione. Ricordo ancora una volta appuntamento a lunedì prossimo con i sabotatori di Edward, l'azione dei sabotatori di Edward Ebbey, la controinformazione, qualche riflessione, qualche provocazione che non può mai mancare su Radiazione e musica. Vi lascio con un brano dei Circle of Dust di Dissolve. Radioazione. Radioazione. Controinformazione. Letture, provocazioni, musica. Radioazione. Punto. Informazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.